Chciałem distruggere San Vento, odiamo la mia vita, costruito con te. Indifferente a tutto quello che ho perso, voglio ricominciare. Non c'è niente in più, non sul mio viso, e si trascinano dietro i ricordi di te. Ma all'improvviso sento un brivido che si posa sulle mie mani. Come va ora che sei rimasta una piccola goccia appoggiata su me? Mai più mai, mai più mai ti dimenticherò e non rimboccerò. Mai più mai, mai più mai ti ritaglierò via dal mio cuore. Contro lo cielo e guardo ancora se tu ci sei. In ogni forma e custodita dai sogni miei. Come va ora che sei rimasta una piccola goccia appoggiata su me? Mai più mai, mai più mai ti dimenticherò e lo rimboccerò. Mai più mai.